suggerirei la grande città. Per i nostri è l'unico deserto alla portata dei nostri mezzi. Ecco, lì mi sono definitivamente messo in pace con il posto dove vivo e con la mia passione smodata per Parigi. Questa cartina che vendo è sempre rimasta sul muro di ogni casa dove ho vissuto e rappresenta tutti i percorsi possibili, compresi quelli che non percorri mai. E nonostante tutto però, nonostante l'Interrail che non mi sono goduto e le città che ho amato, questa cartina è in vendita. Il suo valore è di 20 euro, base d'asta 99 centesimi. Se volete raccontarmi il vostro viaggio da soli, 80024 0024. A little bit of conversation means so much, and a little bit of change is all your little fingers touch. I said, you know, there's nowhere else to go but change in roads. It struck me that the two of us could. Francesca mi scrive: ho fatto il primo e unico viaggio da sola a 23 anni dopo una tripletta di sfighe amorose. Avevo 12 giorni di ferie e ho scelto il last minute più economico che coincidesse con le ferie. Stupendo. Non era proprio Santiago de Compostela o l'India, ma ho scoperto me stessa. 80024 0024 e sorprendentemente ci sono tante donne che viaggiano da sole. Carmen da Cuneo. Pronto, Carmen? Buongiorno, mi chiamo Carmen. Buongiorno, io mi chiamo Matteo. Come va? Non ho problemi di salute, per il resto va bene. Ok, perfetto. Di solito si dice l'importante è la salute, in questo caso l'importante è che ci sia bel tempo, direi, Carmen. Certo. Dov'è che hai viaggiato da sola? Allora, io ho viaggiato da sola in passato qualche volta, ma viaggi per trovare le amiche, non viaggi veri e propri. Mm-hmm. Poi, essendo appassionata, parlando un po' l'ebraico, essendo appassionata di cose ebraiche israeliane, ho voluto fare un viaggio in Israele, ma nessuno voleva venire con me perché è un paese sionista. E il guerrafondaio, anche mio marito. Quindi motivi politici, insomma, esatto. Più che altro. Okay. Quindi, visto che parlo benissimo l'inglese, ho deciso di farlo da sola. E quanti anni avevi, Carmen? È soltanto 4 anni fa. E quindi ne avevo 51, sì. Era per il mio 50esimo compleanno. Ah, una bambina praticamente, Carmen. Ma che? E com'è andata? Come sei tornata da quel viaggio benissimo, in Israele? Benissimo, oltretutto mi hanno aiutato molto là, devo dire. E io mi sono trovata bene, io mi trovo bene in mezzo agli israeliani, sempre, anche quando vado a Torino, mi trovo bene. Mi fa piacere, mi fa piacere più che altro il fatto che tu ti abbia fatto un viaggio da solo e sia tornata rigenerata, Carmen. Sì, sono tornata rigenerata e le racconto solo un episodio divertentissimo perché so che... Dimmi, ma dammi pure del tuo. Dunque, anche, Carmen. Io sono arrivata con una valigia roncato rossa con le LAL all'aeroporto di Tel Aviv. Per essere precisi. Poi? Per essere precisi c'erano due roncato rossi in un volo in cui c'era nessuno e io non lo sapevo, ho preso la valigia sbagliata di un uomo. Benissimo. Sono arrivata in albergo. Sì? E l'albergatore ha telefonato, ha fatto tutte le telefonate del caso e mi ha detto vada domani mattina. Sono rimasta una notte senza niente, sono tornata al mattino dopo e la linea era El Al, mi ha detto signora, in inglese, doveva venire subito. Noi delle LAL siamo aperti 24 ore al giorno per i nostri clienti e Israele tutti così. Benissimo. Ho chiesto di farmi fare una foto. Ogni israeliano sarebbe contento di fargliela. In Israele sono tutti Carmen, così. Starei ora a parlare con te. Abbiamo capito, fondamentalmente è un grande spot per Israele la tua telefonata, la prendo molto volentieri, ti ringrazio e vado a sentire Alessandra da Brescia. Buona giornata. Pronto? Pronto? Ciao Matteo. Ciao Alessandra, come stai? Bene, benissimo. Sempre in viaggio, sono sempre una donna in viaggio. Da dove vieni e dove vai? Allora, abito a Brescia, vado a Verbania da mio marito, abitiamo in due città diverse. Ma da quanto? Allora, 6 anni la storia, mi sono sposati da 6 mesi, però visto che andava bene, per cui il viaggio fosse la mia dimensione. Senti, allora raccontami qual è stato il tuo primo viaggio da sola e dove? Il mio primo viaggio, e devo dire che mi ha aperto gli occhi, il mondo e tutto, è stato in Cina. Uh-huh. Ero in fuga d'amore da una storia che non funzionava, per cui da sola avevo bisogno di depurarmi. Mi sono iscritta in questo viaggio, che poi, per carità, era un viaggio organizzato, per cui in realtà poi ero circondata comunque da delle persone, non è stata una cosa... Non avevi persone che conoscevi intorno dall'inizio? No, assolutamente, poi ne ho fatti degli altri, perché poi dopo la Cina sono andata in Sri Lanka, poi sono andata anche in Russia, sempre da sola. E vale la pena? È stato, sì, meraviglioso prima di tutto perché è una zona di ascolto incredibile, cioè nel senso il fatto poi di non dover mai rendere conto a nessuno, il fatto delle proprie reazioni, le proprie... Ma scusa Alessandra, scusami, non avevi amici o parenti che dicevano ma sei pazza andare da sola in un posto? No. Ma perché tu sei abituata, fai avanti e indietro Brescia a Verbagna. No, ma è una questione di, io credo che in realtà il mondo non c'è niente di occulto, di certo bisogna sempre non essere degli scavezzacollo, per carità, però quanti anni hai, scusa Alessandra, per curiosità? Io 41 e avevo, sono andata nel 2000, sono andata. L'hai detto quasi con un certo puntiglio, 41, come dire, perché? Ti sembrava di più? No. Alessandra, perché... guarda, grazie per la telefonata, anche con te starei ore, però ci sono altri ascoltatori, salutami tuo marito. Avrei voluto e fai... iniziare prima, avrei voluto e viaggiare. Fai buon viaggio, anch'io, guarda, ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo, Mario da Milano, che mi pare stia aspettando da un po'. Pronto Mario? Ciao, sono io qua, buonasera a tutti. Buongiorno, raccontami qual è stato il tuo primo viaggio da solo. Guarda, io il mio primo viaggio è stato a 18 anni, il mio primo viaggio completamente da solo, certo. È stato un regalo dei miei cugini per la maturità. Sì. E mi diedero un'alternativa interessante che non so se poi, voglio dire, se adesso appunto ripeterei la stessa scelta. Sì. Mi regalarono appunto un viaggio e potevo scegliere tra una settimana a New York oppure 10 giorni in Polinesia. Ah. Ho pensato che così a 18 anni avrei potuto sicuramente divertirmi di più, ero completamente solo appunto in una città come New York piuttosto che in E quindi sei andato a New York alla fine? Sono andato a New York, sono partito, i miei genitori mi ricordo che a malapena mi lasciavano andare al mare da solo ancora un po', voglio dire, per dire, non avevo grandi esperienze. Quindi è stato un bel salto nel buio. Mario, come ne sei tornato da New York? Ma guarda, io ti posso dire una cosa, il viaggio da solo per me non è una bella esperienza. Cioè, nel senso, voglio dire, non è, io poi ne ho fatto un unico ancora, molto, molto più in là, ho 44 anni, appunto, 7-8 anni. E non ti ha convinto? A Santorini, in Grecia, da solo. Ti ripeto, guarda, per me il viaggio da solo è sprecato. Okay. A New York mi sarei divertito molto di più con un amico, però visto che era regalato ci sono andato. Mario, ti ringrazio moltissimo. Ciao, buona giornata, ciao, grazie. A 23 anni, 3 mesi in Giappone per la mia tesi. Tokyo, Osaka, Kyoto, un viaggio che mi ha stupito ad ogni passo e mi ha fatto incontrare persone che non dimenticherò mai. Viola, sono arrivati invece diversi messaggi che dicevano: il militare vale come viaggio? Direi di sì, perché di solito si è da soli. Io ringrazio tutti, Laura Faccinti, Ziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea, ma soprattutto Paolino Corleoni e Guido Scotti. La cartina la trovate sul sito radio24.it. Lunedì invece, ragazzi, un pezzo da 90. Da 90, vendo il mio frigorifero Smeg modello anni 50. Color crema. Voi nel frattempo fate un buon weekend pieno di posti da vedere e oggetti da buttare. Love, love, love,